poi passano i giorni, quindi forse le persone anziane, quelle più sole, quelle più spaventate, passano i mesi e quindi c'è chi ha perso il lavoro, c'è chi tiene aperta la sua, il suo negozio, cerca di vendere i fiori a Sant'Agostino ma non ce la fa, come ha raccontato Radio 24 l'altra mattina. E cosa succede per un parroco? Vengono, chiedono, si aggrappano? Ma mi associo a quello che diceva prima Susi sul fatto che anche io ero terremotato, quindi avevo paura quanto la gente, ma si sente la vicinanza e il desiderio di raccontare. La gente ha tanta voglia di parlare, non so se ci hai fatto caso stando qui in questi giorni, appena si parla anche tra di noi, dopo 5 minuti si parla del terremoto, dove eri, cosa facevi, cosa è successo alla tua casa. Per cui adesso come adesso, passati tanti mesi, è rimasto sicuramente da parte della gente il desiderio di essere ascoltata, e quindi e anche da parte di un prete, cioè desiderio di essere ascoltato per quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Quindi per cui penso che adesso ci voglia, da parte, parlo dal mio punto di vista, un po' di coraggio spirituale. Vuol dire, bisognerà fare per forza delle cose nuove, perché i luoghi sono venuti meno. Io sono parroco in un comune che su 3 chiese le ha tutte e 3 fuori gioco, per cui alla gente io sto dicendo in questi giorni, dobbiamo fare delle cose nuove, e per farlo dobbiamo tornare alle radici. Ed è questo, penso, una cosa che posso unire tutti, anche credenti e non credenti. Per fare delle cose nuove bisognerà tornare alle motivazioni, alle radici con cui, per cui si facevano le cose, perché i luoghi ci davano anche una routine, e la routine a volte poi ci fa perdere il senso del perché facciamo le cose. Per cui penso che occorra questa novità spirituale, bisogna avere un po' di coraggio. Questo è necessario che noi, ci hai associato polizie e preti, però insomma chi ha un ruolo, insomma penso che... Uno va in piazza, cosa mi... Il prete, il carabiniere, esatto. E il poliziotto. Esatto, no? Bello. Va bene, dai. Un applauso, grazie per la vostra testimonianza, invito qua i sindaci al tavolo con me. Tu puoi respirare l'alba e poi guardare avanti, scrivere orizzonti nuovi e superarli. Nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Tremano le case, trema tutto il letto, tremano i pensieri e la vita al suo cospetto. Crollano i castelli antichi degli estensi, crollano i nostri moderni appartamenti. E proprio adesso io mi chiedo il perché, di fronte a così tante cose a cui dire addio, mi sento più forte di prima, mi sento più vicino a te. Te che mi cerchi, te che mi chiami in questa nebbia, banchi stanchi noi, aspettando si spalanchino i ricordi, e poi davanti alla tristezza, con l'asfalto che si spezza, il tuo respiro vivo è come il vento e mi accarezza il viso. Puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi e superati. Nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Tu puoi respirare l'alba. Artisti indipendenti per l'Emilia, questo è il brano che hanno fatto, hanno realizzato mi sembra più di 40.000 euro proprio qui a Mirandola pochi giorni fa, c'è stata la celebrazione per destinare questi fondi alla cultura musicale. Do il benvenuto a Fernando Ferrioli, sindaco di Finale Emilia. Salve. E Barbara Bernardelli, sindaco di Reggiolo. Buonasera. Buonasera. Fabrizio Toselli, sindaco di Sant'Agostino, siamo Buonasera. In provincia di Ferrara. Prima di dare la parola ai sindaci, volevo invece però dare la parola all'assessore. Ha preso molti appunti, si è segnato istanze, anche richieste dirette quando si parlava di Stato, credo che comunque vibrasse da quella parte, lettere. C'è anche un po' di rabbia, perché stasera stiamo parlando anche di storie belle, storie di chi ci crede, storie di chi ce la sta facendo tutta per tirare avanti, poi però ci sono le tasse da pagare, poi però si sbaglia a mettere una crocetta nel modulo di richiesta dei fondi e tutto riparte da zero, e quindi si riparte dove? Si riparte, si riparte. Il messaggio che dobbiamo dare è che si sta ripartendo. E credo che dobbiamo, se Federico me lo permetti, ringraziare Radio 24, perché le tante trasmissioni per mantenere i fari, le voci puntate sul dramma, su questo dramma pesante di lutti, sofferenze, danni personali ed imprese in una realtà che rappresenta l'1,8% del PIL del nostro paese, hanno trovato reazioni responsabili e, come abbiamo ascoltato anche questa sera, tanta dignità. E credo che questo sia un elemento estremamente importante, la dignità, la responsabilità di una comunità che si è messa in gioco. Pupi Avati l'ha rappresentata bene prima, ha parlato di gerarchia dei valori rivalutata e della capacità di non piangersi addosso. Io aggiungo quel senso del dovere profondo che non significa rinunciare ai nostri diritti, e questo è questa comunità che non vuole rinunciare ai propri diritti, e noi dobbiamo farlo cercando di dare un messaggio. Siamo tutti in campo, abbiamo ricostruito con i sindaci, il commissario Errani, le condizioni di un rapporto con il governo, perché il nostro paese non aveva neppure le leggi di riferimento per affrontare un dramma come questo. 6 provvedimenti che sono stati infilati all'interno di provvedimenti nazionali per avere le regole per la ricostruzione. Anche oggi abbiamo lavorato per inserire nella legge di stabilità il riconoscimento di danni che, oltre a essere danni materiali, devono essere danni economici diretti, e quindi un lavoro enorme che abbiamo cercato insieme di fare. Ora, io penso che capisco, perché chi soffre ha ragione, e noi tutti dobbiamo impegnarci al massimo. Io ho ascoltato con molta attenzione, come mia abitudine, e come mia abitudine è stata quella di andare nelle aziende, perché qui c'è ancora un vecchio metodo, che è quello di guardarsi in faccia, e noi siamo andati nelle aziende, e molti all'inizio mi dicevano: ma Vasco cosa pensa, ma Giancarlo cosa dobbiamo fare, ce la facciamo, dobbiamo ripartire, e ci siamo dati la mano, abbiamo detto insieme ai sindaci, siamo andati nelle aziende, abbiamo detto: guardate, siamo qui per lavorare, per ricostruire, e quindi le risorse ci sono e ci saranno, e noi dobbiamo ripartire. E questi imprenditori e questi lavoratori che hanno dato un buon esempio al paese, perché quest'estate sotto quei tensostrutture provvisorie di plastica a 50 gradi o adesso al freddo, è stato un buon esempio per il paese, forse è stato quello anche che ci ha aiutato a superare una fase che ci ha messo in difficoltà con eccessive regole. Ma noi paghiamo anche un peso del passato, e oggi abbiamo l'Unione Europea che ci controlla tutto, la Corte dei Conti che controlla tutto, il Ministero dell'Economia e Finanze che controlla tutto, e vi assicuro che non solo il fegato dei cittadini, ma anche il mio fegato spesso traballa, perché ci sono delle difficoltà costanti da costruire. Ma noi abbiamo voluto riprendere un filo. Abbiamo oltre 12 miliardi di euro di danni, e abbiamo già ottenuto dal governo, dall'Unione Europea, le condizioni per avere oltre 9 miliardi di euro che dai primi di gennaio entreranno in circuito per dare risposte concrete per la ricostruzione delle case e per la ricostruzione delle aziende. Questo è un messaggio chiaro: dal 10 di gennaio cominceranno i pagamenti. Dobbiamo farlo però in modo legale. Qualcuno prima, qualche ragazza prima ha parlato di legalità, e noi dobbiamo lavorare per tenere lontano la mafia, che purtroppo c'è ed è presente. Dobbiamo assicurare la tracciabilità e i controlli, dobbiamo cercare di assicurare trasparenza delle procedure e soprattutto le condizioni perché la ripartenza e le risorse siano effettivamente investite per rimettere in sesto la casa, rimettere in sesto le imprese. Ecco, questo è l'impegno che noi abbiamo assunto, e lo abbiamo assunto dopo il superamento della fase dell'emergenza, perché la fase dell'emergenza ha visto uno straordinario impegno corale di tutte le forze, che io ringrazio anche questa sera, ovviamente tutte le forze nazionali e locali della protezione civile, i volontari straordinari, il personale della pubblica amministrazione, i cittadini, tutte le forze di polizia che insieme hanno dato un grande segnale di responsabilità. Abbiamo superato la fase di emergenza investendo oltre 500 milioni di euro, 15 milioni di euro per dare una piccola mano ai commercianti e agli artigiani colpiti nei centri storici per cercare di farli ripartire, cercare di dare una mano a loro. Abbiamo ricostruito, come tu hai detto Federico, le scuole, è stato un grande messaggio, come gli ospedali, come le case di riposo, come quelle che noi abbiamo definito la ripartenza dell'identità, cioè i centri storici. L'ordinanza di Errani di questi giorni per dare 15 milioni di euro per ricostruire i luoghi di culto, Don Matteo, credo che sia un altro importante messaggio per ridare i luoghi e ricostruire i luoghi. Ecco, questo è ciò che noi vogliamo fare, lo facciamo in raccordo con i sindaci, in un unico momento collettivo di decisione, perché il commissario Errani lo vuole fare sempre insieme a loro e soprattutto insieme a loro e al tavolo delle forze economico-sociali. È un passaggio difficilissimo perché siamo entrati nella fase della ricostruzione e la fase della ricostruzione richiede a tutti responsabilità. Noi siamo a totale disposizione, lo dico anche questa sera pubblicamente, lo dico agli imprenditori in particolare, perché quel momento là, quest'estate come oggi, imprenditori e lavoratori sotto quelle strutture sono un'immagine positiva del nostro paese. Ora dobbiamo ricostruire i capannoni, dobbiamo ricostruire gli impianti, dobbiamo ricostruire i macchinari. Lì ci saranno fino all'80, ci saranno l'80% di contributo e poi anche le scorte troverà una risposta. Quindi il pacchetto è ormai sistemato. Entriamo quindi in una fase delicatissima, occorre molta responsabilità. Noi abbiamo fatto un numero verde 800 407 407, abbiamo però detto, e io ho distribuito il mio cellulare a tutti, perché bisogna che noi facciamo squadra. La ricostruzione sta in noi e dobbiamo darci una mano perché tutti insieme possiamo ripartire. Questo è il messaggio che vorrei dare, estremamente concreto, di impegno, perché la Regione sta continuando a operare e a discutere e anche a litigare col governo, sta continuando a collaborare col territorio, a partire dai sindaci, alle imprese, alle comunità, alle famiglie, perché noi dobbiamo dare un buon segnale di ripartenza per fare meglio e per ritornare ancora meglio, perché la lezione del terremoto deve essere una lezione per tutti di rinascita diversa e più sicura. Assessore, io non l'ho interrotta perché mi sembrava giusto che, dopo aver ascoltato tanto, comunque lasciarla anche parlare. Segnali importanti, stasera non possiamo dare tutte le risposte, non so neppure se queste sono le risposte del pubblico, però la disponibilità del sindaco, magari finita la puntata si ferma altri 10 minuti, è vero che magari se anche qualche tutto il tempo necessario. Perfetto, richiesta specifica, non le chiederemo tutto il cellulare, gliela assicuro. Ciao. Poi ce l'hanno già tutti, è il cellulare più diffuso, non lo sapevo. I sindaci, le facce del terremoto, il sindaco Ferioli da Finale Miglia, l'ho incontrato anche in altre manifestazioni, l'abbiamo vista con Renzi, l'abbiamo vista con Vasco Rossi, che vi ha donato uno scuolabus intitolato Alba Chiara. I bambini la mattina, secondo me, l'Alba Chiara non la vedono tanto, però la vedranno, esatto. Un pezzettino di Stato lì nel comune, eravate voi a rappresentare, siete voi che rappresentate lo Stato. Cosa si prova a essere tirati da una parte, che è quella dei cittadini, dei loro bisogni, delle loro arrabbiature, e quella poi della regione, dello Stato, ovvero della nazione, del governo, e lì in mezzo, come si riesce a gestire questo complicato equilibrio? È devastante, siamo completamente divisi e siamo cittadini, siamo terremotati, viviamo con le nostre famiglie da terremotati, abbiamo le paure, abbiamo perso le case, abbiamo perso la tranquillità, la quotidianità. E essere anche rappresentanti, giustamente, perché quella fascia tricolore è importante. Noi dimostriamo veramente quello che è la risposta di quello che sono le istituzioni, e le istituzioni ci sono state. Ci sono state a livello, io parlo di enti locali, tantissimo, a livello di regioni ha fatto un lavoro incredibile insieme alla provincia,

li conosce il sindaco, hanno inventato così una riqualificazione artistica del centro con questo gruppo, questa associazione Nessun Dorba. Cosa state combinando? Allora, tutto è nato in merito alla tesi che sto svolgendo insieme a mio compagno Roberto Angeli presso il Politecnico di Milano in architettura. E abbiamo appunto subito dopo il terremoto, il tema della tesi inizialmente era un altro, con il terremoto abbiamo dovuto cambiare tema perché proprio lo stavamo svolgendo sempre sul comune di Reggiolo, sul piano regolatore, ma non aveva più senso perseguire questa strada. E quindi da qui l'iniziativa di pensare a Reggiolo, dare un piccolo contributo, non fare la solita tesi che rimanesse carta così un po' campata per aria, fare qualcosa di reale e possibilmente che si potesse in piccola parte realizzare. Da qui l'idea, durante un sopralluogo lungo la via storica via Matteotti, vedendo questi tristissimi teloni bianchi, di fare qualcosa, cercare di ricolorare un po' il paese e quindi non solo riattivare il Reggiolo dal punto di vista urbanistico, ma riattivarlo proprio socialmente, che è questo secondo me che ha bisogno la gente, di ritornare a vivere il centro. E quindi qua l'idea di chiamare un gruppo di street art che è a base Reggio Emilia, il collettivo FX, e da questa iniziativa poi è scaturita tutta una serie di altre, cioè agganci con altri artisti anche a livello internazionale, e tutto ciò è stato reso possibile anche dall'aiuto dell'amministrazione comunale, che ha subito approvato questa idea, e a tutti quelli che hanno contribuito anche il singolo colorificio a donare il colore per fare quest'opera. Quindi cioè, un grazie a tutti, soprattutto anche questo è stato l'esempio proprio della solidarietà che c'è tra l'amministrazione e anche il pubblico cittadino. Nessun Dorba, Linietta, reggiolo.blogspot.it il sito per andare a vedere queste opere, anche questo, vero Barbara Benardelli, sindaco di Reggiolo, è ricostruzione dare emozione, sono, vero? Sono segnali importantissimi. Via Matteotti era il centro vitale di Reggiolo, sede di un centinaio di attività commerciali, di banche, servizi, bar, era veramente il cuore pulsante insieme ai nostri edifici storici, e chiaramente il terremoto ci ha tolto la nostra identità in senso di edifici. Ma come veniva ricordato, fortunatamente la nostra gente non ha voluto piegarsi, anzi ha voluto ritrovare nuove motivazioni per rimboccarsi le maniche, per andare avanti e per cercare di ricostruire un paese che lo si vuole rivedere bello, fruibile come prima. Devo dire che un altro elemento che da amministratore mi dà molta speranza è l'aver visto molti giovani, abbiamo visto questi ragazzi che hanno deciso di fare una tesi, hanno deciso di vivacizzare la via, trasformandola in un'enorme galleria aperta a tutti. Il fatto che questi giovani si siano messi in prima linea e abbiano partecipato alla ricostruzione del proprio paese dà molta speranza, perché spesso purtroppo i giovani venivano descritti come disinteressati, come apatici, esatto, vero? E invece, come è stato ricordato, questo terremoto ha fatto sì che la buona società, quella vera, fondata sui valori seri, emergesse, ma soprattutto anche una classe di giovani che ha tutti i meriti per poter prendere le redini del nostro futuro, diciamo così. Barbara, una cosa tra le tante a cui state lavorando e a cui tieni particolarmente, o comunque la comunità intera, perché si parla al sindaco ma si sta parlando a una comunità? Ma un progetto che stiamo improntando, che stiamo realizzando, devo dire che gran parte della ricostruzione è possibile grazie anche a tutti i contributi, sia in termini di solidarietà, in termini anche operativi, che arrivano dalle più svariate realtà e anche dalle realtà imprenditoriali del nostro paese. E questo ci permette di realizzare progetti che probabilmente da soli non riusciremmo a realizzare in tempi così rapidi. E, noi ci siamo concentrati, oltre che sulle scuole, insieme alla regione, anche sul poter riattivare tutti i luoghi che garantivano aggregazione. Perché visto che non ci sono più i luoghi identitari, non possiamo perdere la comunità, non possiamo perdere i nostri cittadini, non possiamo perdere la speranza di andare avanti, e questo lo si può fare solo se ci sono dei luoghi in cui ci si ritrova, si discute. E noi abbiamo due realtà importantissime: una biblioteca che ospitava 25.000 volumi, aveva preso nel 2007 il premio come miglior biblioteca della provincia, era in un palazzo storico di Reggiolo, e una scuola di musica che è il nostro fiore all'occhiello, anche questa ha preso dei premi come miglior scuola della regione, ha diversi progetti legati ai bambini, ai giovani, ai disabili. E grazie all'aiuto di una importante banca locale che si è attivata da subito in quanto terremotata, e quindi ha cercato di garantire, perché io ricordo il 29, soprattutto il 30, il 29 è stata la data che ha creato i danni maggiori a Reggiolo. Io ricordo il 30, dove non era più possibile fare un bancomat, non era più possibile andare dal medico, non era più possibile e far la spesa, non era più possibile neanche andare al bar, mi ricordo il centro completamente chiuso. E queste realtà da subito si sono attivate, chiaramente, per creare la propria attività in spazi alternativi, delocalizzando, e successivamente poi ci hanno dato la possibilità di realizzare questo importante progetto, e quindi nella primavera potremo finalmente riaprire la nostra biblioteca, ospitare i nostri bambini, le letture per i più giovani, e potremo anche dare degli spazi adeguati alla scuola di musica e alla nostra banda. Un applauso ai primi cittadini, avete la fortuna di essere qua, quindi di gustarvi questo applauso, ma dividetelo veramente con tutti i vostri colleghi. Grazie per la vostra testimonianza, le informazioni del traffico, poi ancora qua con l'Emilia che riparte. Ho capito che ogni minimo istante è importante. Ogni secondo che passa la mia vita prosegue, è solo miracolo. Ho capito che non vale la pena di investire nelle cose terrene, bensì in quelle interiori. Ho riscoperto la dolcezza di un sorriso, di qualcuno che ti offre una mano, e ho visto la gioia negli occhi di coloro a cui ho potuto offrire la mia. Andremo avanti, siamo vivi. Ripartiremo da zero, sperando che il peggio sia già passato e pensando a domani, perché noi teniamo botta. Stai qua, questo è un testo di Emilia Midori. Che lei, grazie davvero per aver voluto condividere con noi questo che hai scritto. E sarà un finale velocissimo, abbiamo ancora tanti ospiti, avremo proprio dei flash su quello che hanno fatto, ma prima un altro saluto, un'altra testimonianza importante. Chiediamo scusa per il ritardo, è da un po' che è in linea e che ci sta aspettando, però le parole dei primi cittadini ci sembravano comunque particolarmente interessanti e incisive. Ringraziamo per essere qua con noi Cesare Cremonini. Ciao Cesare. Eccomi, ciao Federico, eccomi qua. Ciao a tutti, buonasera a tutti quanti. Scusaci per l'attesa. Non ti preoccupare, figurati, vi ho seguito. La tua Emilia che tu hai testimoniato, tu hai cantato, tu hai suonato, tu ci hai messo la faccia, ci hai messo le note. Che cosa rappresenta per te oggi questa terra che ha tremato, ma questa terra che tenta di ripartire? Ma il mio legame con l'Emilia è un legame che mi porto nella tasca ovunque vado, ed è un legame che mi tiene ancorato fortemente a valori e a tradizione. Non lo sento per niente come un limite, perché la passione e l'amore per le cose che ti danno anima e ti danno cuore sono quelle che poi mi permettono di allontanarmi invece dalle tradizioni con più coraggio, o di allontanarmi dai confini con più coraggio. Quindi il rapporto che ho con questa terra non è come spesso può finire per chi è giovane come me, oppure per chi insomma ha tanta voglia di fare come me, con un rapporto di odio e amore. È puro e semplice amore. Mi sento molto più come se questa terra mi avesse dato che ha tolto, sebbene so quanto oggi sia importante e penso sia fondamentale aprirsi a diverse culture, a diverse tradizioni, a diversi modi di fare, modi di parlare, di esprimersi, però tra tutte le terre che ho visitato, grazie alla fortuna di aver fatto il mestiere che faccio, tra tutti i popoli e le popolazioni che ho incontrato in questo paese meraviglioso e variopinto che è l'Italia, considero l'Emilia in modo oggettivo una delle terre, uno dei popoli più veri e più vivi, e quindi continuo a cantare questa terra, non per forza in modo esplicito, anche in modo implicito, in ogni canzone, in ogni nota che scrivo, che suono. Cesare, lasciaci con una tua immagine. Tu, quando vuoi ripartire, a cosa ti aggrappi? Dove vai a scavare? Stasera molte volte abbiamo detto che per ripartire a questo giro bisogna fare un passo indietro. Qual è il tuo passo indietro? Io quando mi trovo per terra, nelle piccole cose, nelle grandi cose che rendono una vita bella ma drammatica anche alle volte, riparto sempre comunque dall'uguaglianza, cioè da, mi viene in mente la Via Emilia perché la Via Emilia è una strada antichissima che tiene unite persone diverse, città come Bologna, Modena, Reggio, Parma, arriva fino al mare, fino alla Romagna, tiene unita una terra che all'interno ha diversi modi di pensare, diversi modi di parlare, di mangiare e diverse culture, e ne fa una terra unica, e unisce queste terre come fosse una collana di perle che sta insieme perché unisce, e quindi se ti devo dire sinceramente che cos'è che mi fa pensare di rinascere, è sempre comunque il concetto di uguaglianza. Grazie davvero, ci piace l'idea anche della Via Emilia come collana e le perle, le abbiamo qua davanti. Grazie davvero a Cesare Cremonini, un grazie, applauso, Federico, un saluto. Un abbraccio a tutti voi, un abbraccio a Carlo, a tutti voi, a presto, ciao. Abbiamo veramente pochissimi minuti prima di chiudere, però volevo comunque dar voce e far vedere queste altre facce che abbiamo conosciuto in queste settimane. Campi d'arte con Silvia Presti, viene Silvia, proprio una raccontaci chi siete, ma veramente col dono della sintesi che so che è tuo. Noi siamo una cooperativa sociale che lavora con persone con disabilità e con vari tipi di svantaggio, e anche noi appunto siamo terremotati, abbiamo perso dal 20 maggio, quindi non da subito, dalla prima scossa abbiamo perso la sede, e abbiamo cercato di fare l'impossibile, stiamo cercando di farlo tuttora. Siamo stati ospitati in un centro giovanile messo a disposizione dal comune, che subito ci è venuto in soccorso, e da lì abbiamo iniziato a pensare, come si diceva prima, a cose nuove, perché indietro non potevamo più tornare, perché là non sarà più ristrutturabile, non potremo più rientrare. Siamo anche noi una situazione, come dire, che cerca di garantire i diritti come le scuole, cioè le scuole hanno potuto riaprire perché la regione giustamente per prima ha deciso di dare garanzia a continuità, e quindi riprendere a garantire i diritti degli studenti. Noi, come diceva anche l'imprenditore che lavorava nel biomedicale, non potevamo fermarci, non potevamo non garantire anche noi l'assistenza e il luogo in cui le persone con disabilità dovevano essere presenti e avere un'opportunità. E allora abbiamo fatto l'impossibile, per una settimana abbiamo riaperto, però siamo in una situazione in cui dobbiamo costruire una cosa nuova completamente, e quindi questo impossibile cerchiamo veramente di farlo diventare reale attraverso gli aiuti che finora sono arrivati dai cittadini. Il sito per conoscervi è campidarte.it, grazie davvero. Grazie. A Silvia. Grazie. Un'altra testimonianza che mi piaceva portare qua questa sera, perché abbiamo parlato anche dei campi, e c'è con noi Fanny Farahia, psicopedagogista. Fanny, tu hai origini persiane, però hai vissuto a Modena, però adesso vivi a Firenze, ma per settimane hai fatto volontariato come psicopedagogista nei campi a Cento, in provincia di Ferrara. So che chiederti di stare in pochi secondi a raccontare quello che hai fatto è quasi una bestemmia, però ti chiedo di... No, ma forse in persiano riuscirei anche in 3 secondi, in italiano forse ci metto 3 minuti, ma visto che non c'è tempo cerco di sintetizzare. Noi in questo campo di accoglienza al Cento abbiamo cercato di dare voce agli adolescenti dare dignità e dare un senso di appartenenza a questi ragazzi, perché era un campo la maggior parte di stranieri di varie nazionalità, e noi abbiamo fatto un grande lavoro con gli adolescenti, dove abbiamo creato un laboratorio fotografico dove tramite questo linguaggio i ragazzi stessi sono stati i protagonisti della loro vita e di un filmato dove raccontano la loro esperienza in terremoto, e hanno scattato ognuno con la sua macchina fotografica delle foto a casa loro distrutta, in centro la chiesa, la scuola distrutta, la vita in campo e tutto quello che è nato delle emozioni, delle amicizie nuove, nuovi amori e tutto il resto. È nato un DVD. C'è un sito internet, c'è qualcosa da dare per le informazioni? C'è l'associazione Quanto Basta, che ha dato modo a questo percorso a presentare una mostra. Si chiama 100 scatti ragazzi in terremoto, che noi abbiamo con questa associazione abbiamo già fatto una mostra che ha avuto un grande successo a Bologna, e vogliamo portarlo a 100, dove ci sono i nostri protagonisti. Perfetto. Grazie per far davvero capire quanto importante sono stati. Natale per l'Emilia invece, un'associazione di cui abbiamo già parlato. Si può, Vittorio Reggiani, presidente cooperativa Oltremare, veramente diamo il sito che è nataleperlemilia.it, ci puoi dire sinteticamente che cosa? 5 cooperative e associazioni: la cooperativa Oltremare, Bottega del Sole, Vagamondi e Ortè, Venite la Festa. A giugno abbiamo passato il Natale, abbiamo costruito una confezione con i prodotti del commercio eco solidale che lavoravano nel territorio, più dei produttori, una dozzina di produttori ai quali abbiamo garantito già da giugno il lavoro per questo Natale. Abbiamo fatto più di 8.000 confezioni, credo che sia il primo gradino per ripartire. Dobbiamo chiudere, mi scuso con chi non ha potuto intervenire. Assessore, una parola, veramente una parola per chiudere questa puntata. A dare con tanto impegno legittima risposta alla rabbia costruttiva che abbiamo registrato questa sera, quindi impegno di tutti per andare avanti e ricostruire. Un applauso a voi per essere stati con noi, un applauso a tutto lo staff di Radio 24. Torneremo a parlare di Emilia, lo faremo con chi non ha parlato questa sera, ci metteremo la faccia e ci metteremo la voce. Grazie. Emilia sognante, fra l'oggi e il domani. Il progetto è sostenuto da CPL Concordia, energia che migliora la vita. E da Credem Banca.